Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Era intervenuto per mettere pace tra due gruppi di ragazze all'interno di un locale a Colleferro, paese tra Roma e Frosinone. Una lite per motivi stupidi, finita con il pestaggio, costato la vita a chi cercava solo di placare gli animi e difendere un amico coinvolto nella rissa, scoppiata poi all'esterno del pub. È morto così Willy Monteiro Duarte, 21 anni, di origine capoverdiana. Un ragazzo descritto da tutti come tranquillo e per bene, un gran lavoratore, faceva il cuoco in un albergo. Nato e cresciuto a Pagliano, poco distante da Colleferro, aveva appena raggiunto la macchina per tornare a casa quando il branco, almeno 4 giovani tra i 20 e i 30 anni, tutti residenti nei paesi vicini, l'ha aggredito, preso a calci e pugni, fino a farlo crollare a terra. Inutile la corsa in ambulanza, quando è arrivato al pronto soccorso ormai per lui non c'era più nulla da fare. Poco dopo, in caserma, sono stati portati diversi giovani e per 4 di questi, tutti di Artena tra i 22 e i 26 anni e tutti con precedenti penali, sono scattati gli arresti con l'accusa di omicidio preterintenzionale. È un episodio di cronaca di cui si è parlato molto, si parla ancora oggi, ha conquistato la prima pagina di tutti i giornali ieri, meno uno che non l'ha nemmeno citato, nemmeno le pagine interne, perché probabilmente per la linea di quel giornale, che non mi va di citare, questo episodio non era accaduto. Un ragazzo innocuo dal punto di vista dell'aggressività è stato ucciso a botte da due fratelli che in realtà in un piccolo centro, Colleferro, nell'Interland romano, avevano fatto, diciamo, della loro credibilità i loro corpi di combattenti, di picchiatori, di persone che comunque si immortalavano. Poi magari erano due pezzi di pane, come dice il loro avvocato, ma comunque amavano immortalarsi nei social, dando di sé un'immagine che ha un'iconografia molto riconoscibile. Tatuati, fisici super palestrati, capaci di fare peripezie con pugni e calci volanti, insomma praticavano quella che viene chiamata MMA, Mixed Martial Art. È un mix di tutte le arti marziali, la cui finalità è quella sia di mostrare spettacolari combattimenti, e cioè tutto un filone cinematografico, cosiddetti film di botte, detti in maniera volgare, sono quelli che hanno Jean-Claude Van Damme come uno dei veterani, ma ce ne sono tantissimi, film che non hanno nulla di spiacevole, li guardo anch'io quando voglio rilassarmi, guardo un bel film di botte. Ti rilassa, ti fa star tranquillo, ti fa immaginare ci possono essere eroi invincibili, è un'epica in cui uno si può tranquillamente cullare senza sentirlo come sensi di colpa. Alla stessa maniera è facile vedere, soprattutto su Facebook, oggi un nuovo filone di video di quelli che ti vengono mandati in modalità push, che ti arrivano probabilmente perché tu hai visto un film prima, e hanno tutti la dicitura: hanno fatto male a sottovalutare l'avversario. Si vede sempre o un ragazzo gracile, o si vede un signore apparentemente normale, o un giovane cinese piccolissimo che finisce al centro di un ring dove i cattivissimi fanno dei combattimenti all'ultimo sangue, scommettendoci sopra, e uccide, picchia, ammazza, si difende, insomma, gettando litri di sangue sconfigge tutti i cattivi. Invece l'altro filone, quello che ha come capostipite Van Damme, è sempre un supereroe con una vita travagliata, un ex legionario, ex galeotto, ex poliziotto, ex tutto, che gli hanno massacrato la famiglia, ucciso i figli, così che a un certo punto viene tirato per i capelli poi non ne hanno quasi mai perché hanno i crani calvi, perché una delle caratteristiche è non dare punti di appiglio all'avversario, bisogna avere la testa ben rasata, come i due fratelli che hanno ucciso il ragazzo di Colleferro. Beh, improvvisamente si trova al centro di decine di cattivi e lui li sconfigge tutti. Diciamo che questo parossismo è stato usato come specializzazione e lettura artistica di un film di genere da Tarantino. In Kill Bill esiste l'invincibilità, comunque lì attraverso la spada, ma comunque l'eroe che conosce l'arte, che apprende l'arte e sconfigge tutti. Oggi su questo si parla con un'accezione diversa. Recalcati, in prima pagina della Stampa, fa una sua riflessione: corpi come armi, così si alimenta il mito fascistoide, dando anche una valenza politica ai corpi tatuati, palestrati, l'aggressività, ai bulli di paese che tutti chiamavano quando volevano comunque un manforte nella rissa, che tutti sapevano che comunque hanno persone che coltivavano la loro capacità di combattere e quindi devono metterla in pratica. E Ricalcati addirittura cita Platone, cioè anche Platone era un lottatore, viene chiamato Platone perché aveva le spalle larghe, però nonostante questo è quello che ha messo a punto una filosofia basata sul mondo delle idee, quanto di più quintessenziato c'è. Quindi tutto sommato è vero sì che l'aggressività fisica, il culto del corpo, l'atto d'ardimento, la frequentazione nelle arti marziali è qualcosa che ha alimentato il mondo della destra. Dagli anni 70 in poi, quando furono introdotti in Italia i film di Kung Fu, naturalmente i primi furono quelli che pensavano che l'avere una capacità di autodifesa rappresentasse uno dei valori di un uomo integro, di un uomo che rappresentasse un mondo del passato. Vi dico la mia posizione: io da giovane ho praticato arti marziali perché mi dava gusto, perché ero gracilino, perché mi piaceva l'idea, perché anche io guardavo i film di Bruce Lee, conosco l'uso del nunchaku e mi fa ridere che ancora a 65 anni riesco a maneggiarlo, ma questo non ha mai coinciso con la mia voglia di aggressività. Avevo un figlio anche molto gracilino, l'ho mandato a fare Kung Fu, oggi è maestro di Kung Fu, almeno sta tranquillo, sta sereno, se incontra dei bulli tipo i fratelli di Colleferro sa difendersi, ma in realtà il povero ragazzo ucciso non aveva, Willy, questa capacità. Oggi vorrei con voi riflettere su un fatto. Ci rendiamo conto che in tutte le generazioni che possono ascoltarmi esiste un modello nel ricordo a loro fanciullezza, gioventù, adolescenza, età matura, delle persone che usavano la loro preponderanza fisica come strumento di affermazione. Nelle situazioni soprattutto di paese, di provincia, esiste sempre quello che non ti puoi avvicinare, non puoi guardarlo se non con occhi bassi, non puoi incrociarlo. Perché? Perché parte e mena. A Roma dicono parte di capoccia. Perché? Perché sono persone che, questo lo dice veramente Recalcati, hanno sviluppato un'aggressività che va oltre quella degli animali che aggrediscono per istinto di conservazione. Agiscono soltanto per il gusto di affermare se stesso attraverso la forza. Il coltivare la propria forza, la propria capacità di combattere non è detestabile. Uno può farlo serenamente, tranquillamente, ma non in uno schema di così precisa volontà di apprendere tecniche per far male ad altre persone. Io sono addolorato, vengo attaccato anche sui social, che no, i social sono ingiustamente, perché però non posso farci niente, Willy non ritorna indietro. E non dipende assolutamente dagli sport da combattimento. Tanta gente pensa che io sia il maestro dei killer, ma non è così. Chi mi conosce sa bene come sono e come insegno. Io non è questo quello che gli ho insegnato. Io pratico arti marziali da 20 anni. Io qualche volta mi hanno detto che sono stati in mezzo a colluttazioni e tanto è vero che l'ho ripresi e gli ho detto: non si fanno queste cose assolutamente, cambia comportamento altrimenti non puoi fare parte della mia accademia, perché non è questo quello che noi tramandiamo alla gente. Sono addolorato questa cosa. Quello che avete sentito è Luca Di Tullio, che è l'istruttore della palestra frequentata dai fratelli Mario e Gabriele Bianchi, le persone implicate nell'omicidio di Willy. Attualmente si difende, dice, la mia è una palestra dove si applicano tecniche di combattimento. L'MMA è un mix di tutte le possibili discipline moderne, antiche, lotta, wrestling, box thailandese, kali filippino, jiu-jitsu brasiliano, jiu-jitsu giapponese. Insomma, è quello proprio da film spettacolare in cui le persone colpiscono in maniera spettacolare e letale. Sembra sempre che ad ogni mossa corrisponda una piroetta, un calcio volante triplo. Questo fa parte comunque di una cultura iconografica che è molto seguita. Lui c'ha la sua palestra, dice, più volte ho detto a loro, perché ha risaputo a Colleferro che amassero mettersi nelle risse, anche perché uno mette a punto un sistema di combattimento che non è un'arte marziale. L'arte marziale presuppone una disciplina, una regola che non ha nulla a che fare con questa tecnica moderna. Potrebbe servire a persone che vanno a fare i mercenari e che fanno mestieri rischiosi in cui è importante sapersi difendere, oppure persone che hanno il mito del film del genere di botte e quindi, oltre a essere allenati in palestra, farsi video su Facebook, quanto sono belli, tatuati, perfetti, quanto sanno lanciare il triplo salto volante alla Chuck Norris, e poi alla fine con qualcuno devi prendere, te la prendi con un po' un ragazzo, gracile, indifeso, con un'infinità comunque di fragilità sicuramente, e lo ammazzi di botte. 80024, avete conosciuto anche voi quello che non potevi nemmeno guardare che ti menava? Oppure praticate comunque degli sport di combattimento, delle arti di combattimento? Cosa ne pensate della poi applicazione pratica della cultura di questi sport? Non voglio fare il buonista che dice Dio mio che cosa orrenda gli sport di combattimento, sono una cosa che possono essere presi, possono divertire, possono essere tranquillamente praticati, l'importante è che non si vengano considerati come la trasformazione del proprio corpo in un'arma letale che poi deve naturalmente mantenere il proprio assetto, quindi continuare a combattere. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Bruno Ballardini lo chiamiamo sotto diverse sfaccettature in diverse epoche, è un esperto di marketing e comunicazione strategica, ha scritto tanti libri, uno addirittura contro lo sport di cui abbiamo parlato, sull'ISIS, ha scritto su Papa Francesco, sulla strategia del Vaticano, ma però è anche, non so se ne abbiamo mai parlato, maestro di karate antico e presidente dell'Associazione Italiana per lo studio del karate antico. Il karate antico immagino che sia un karate primordiale, che non ha subito contaminazioni moderne e sportive, come lo praticavano probabilmente quelli che hanno messo a punto quest'arte marziale. Ho detto giusto, Bruno? Sì, sì, esattamente. Cioè, diverso dalla versione che tutti conoscono, che è quella agonistica pre-olimpica sportiva, dove naturalmente i colpi si fermano, eccetera. Non è che noi facciamo combattimento, ad esempio, uccidendo persone continuamente. Noi non facciamo semplicemente combattimento. È come andare al poligono di tiro con una pistola. Non usiamo la pistola per sparare alle persone, ma semplicemente ci alleniamo ad usarla. Tutto qui. Anche le arti marziali nascono come tecniche di difesa. Persone fragili, monaci, monache, donne che avevano bisogno di difendersi da predoni, da situazioni strane, lo mette a punto le tecniche di difesa efficaci. Non era un gioco, non era un balletto. Serviva per difendersi, ma con certo stile, con una certa ritualità, perché c'è sempre dietro un'armonia generale. Ecco, ti chiedo, come esperto in generale, penso di arti marziali. C'è una differenza profonda fra quelle che chiamiamo arti marziali, anche sportive, anche come pratica sportiva, e questo MMA. È qualcosa che nasce da un filone cinematografico, un filone di cultura pop, e poi viene applicato nel piano pratico. Secondo te chi è il medio fruitore di questa tecnica di combattimento? Allora, adesso vanno molto di moda le MMA, ci sono anche delle frange estreme come lo Strelka in Russia. Lo Strelka si fa addirittura senza limiti, fino al KO vero, se fosse possibile. L'MMA invece è diventata regolamentata perché ha una base sportiva. Nasce fondamentalmente dal fallimento delle arti marziali sportivizzate, cioè il karate sportivo ha lasciato sempre insoddisfatti i praticanti perché sei costretto a fermarti, a non colpire. La gente è una pantomima, alla fine diciamo è una pantomima, perché se tu il pugno poi devi fermarti a un millimetro dalla faccia, non ha senso, giustamente, esatto. L'arte serve per colpire. Viceversa, dai tempi antichi, cioè quello che noi stiamo diffondendo in Italia è la versione originaria, che però si faceva intanto segretamente, proprio per evitare che tanta gente, ragazzini come quelli che si avvicinano alla MMA, si avvicinassero violenti, eccetera, ma anche e soprattutto perché nessuno si appropriasse di certe tecniche che sono mortali, perché noi abbiamo in mano delle armi vere, per non usarle, questa è l'etica. Impariamo delle cose mortali per non doverle usare mai. Questo è molto diverso da chi fa MMA, che è uno sport da combattimento. C'è una grande differenza tra arte marziale tradizionale e sport da combattimento, che rimane comunque uno sport. E prima sentivo l'insegnante dei due della palestra, di Colleferro, ecco, che dice che li ha ripresi. Sì, senz'altro li ha ripresi, ma in un altro senso, cioè li ha fatti tornare in palestra, mentre doveva semplicemente mandarli via. Questa è la grossa differenza, cioè l'incapacità. Ecco, in una tua palestra, una palestra ipoteticamente gestita da te, tu sai che dei tuoi allievi mettono a punto le tecniche che tu a loro insegni per andare a fare le risse. Questo è un dato di fatto, ma sta emergendo. Questi erano i tipici cibulletti che andavano nelle discoteche, se solo li guardavi storto, andavano di capoccia e menavano, anche perché erano fighi, forti, muscolosi, su questo basavano il loro prestigio. Ecco, tu cosa faresti? Cosa dovrebbe fare un maestro? Se le MMA sono un'operazione di marketing, perché attirano tutti questi ragazzini un po' aggressivi, impotenti, che vogliono sentirsi più forti, fa molto effetto, perché hai usato la parola spettacolare. Nelle arti marziali tradizionali non c'è niente di spettacolare, perché sono delle tecniche normali. Cosa avrei fatto? Ma noi selezioniamo, io come tante altre persone, scegliamo molto accuratamente la gente prima di farla salire sul tatami. Se mai capitasse, ma proprio perché l'abbiamo già scelta prima, non capiterà mai che uno dei nostri va a fare botte, dopodiché viene escluso dal corso subito. Invece ho visto che venivano ripresi, nel senso riaccolti sul tappeto, sul tatami, dall'insegnante che abbiamo sentito prima. Questo è immorale, assolutamente immorale. Ecco, ci fermiamo solo un istante perché devo già dare la linea, ho tantissime telefonate anche di praticanti di arti di combattimento. Quello che vorrei capire oggi, ripongo la domanda al mio pubblico, può chiamare all'800240024. Io non ho nulla contro i film di botte, mi divertono pure, non ho nulla contro gli eroi di questi film, gli attori si prestano a questo. Ho molto da dire sul fatto che questo diventi una moda che poi si applica, perché se tu fai un'arte di combattimento che implica il combattimento, in cui devono uscire sangue, saltare denti, saltare occhi, vedersi persone a terra che non respirano negli sbocchi di sangue, come in questi film, se tu pratichi quel tipo di arte, prima o poi alla fine il tuo scopo è ricreare quel tipo di set. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Quanto ti serve? Non sono qui per un prestito, Frank. Volevo chiederti di allenarmi. Fai sul serio? Forza! Avevamo detto che non avremmo dato ai nostri figli una famiglia il cui padre si fa picchiare per sopravvivere. Brendan, sei un insegnante, non hai niente a che vedere con quegli animali. Veramente sono stato uno di quegli animali. Ho dimenticato di metterlo nel curriculum. Ci sarà un grande torneo. I migliori 16 pesi medi al mondo. Chi vince si prende tutto. Voglio che mi alleni. 800240024, ringrazio da Milano Pietro Lacorte, da Roma Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti, che mi stanno mandando in onda da un Tugurio Cameretta Studio. Questo continua a essere Melog Home Edition, perché mi trovo bene a farmi da casa mia la mia trasmissione, e stiamo parlando dell'MMA, l'arte di la tecnica di combattimento, che è al centro delle cronache, perché con questa tecnica due fratelli hanno, assieme ad altre persone, provocato la morte di un ragazzo inerme a Colleferro. Quello che avete sentito è il trailer di Warrior, che è un film del 2011, dove i protagonisti sono proprio due fratelli che praticano l'MMA, e naturalmente vengono poi vanno al centro in una serie di vicende, un film anche con un portato sentimentale dentro. Però vedete, probabilmente c'erano dei modelli di ispirazione iconografica, filmica, rispetto alle gesta di questi due fratelli, che in realtà Colleferro facevano un po' i bulletti di paese, quelli che c'erano una bella macchina, avevano delle buone attività commerciali, avevano una buona capacità d'acquisto, ma non paghi, erano anche giovani, tranquilli, devono essere super fighi, quindi super tatuati, super muscolosi, e non c'è niente di male se uno piace fare questo, super praticanti di arti letali, e facevano video che pubblicavano su Facebook, di loro facevano il calcio volante alla Chuck Norris oppure cose del genere, si allenavano benissimo, se uno è fiero del proprio fisico è giusto che lo stenti e lo usi anche come arma di seduzione o di intimorimento degli altri. La fase sbagliata detestabile, e quando questo poi diventa una pratica di piccola sopraffazione mafiosetta di paese. Sono i due che menano, sono due fratelli, quindi sono sempre in due comunque, sono sempre, ce ne sarai sempre uno avanti, uno dietro, chiunque tu sia, e quello che imparano in palestra, forse dare calci e pugni su un sacco, mentre altra gente passa il proprio tempo in maniera diversa, poi lo devono mettere in pratica su un corpo fatto di carne, di ossa, di cartilagine, che ogni pugno corrisponde allo schizzo di sangue che si vede nei film di genere specializzato. Sentiamo Davide, buongiorno Davide. Sì, buongiorno Nicoletti, grazie. Ma io credo che il punto di ispirazione di questi ragazzi non sia tanto il film o comunque il loro edonismo, ma quanto un metodo di prevaricazione che è diventato sistema. Quindi, al di là di che cosa fanno e di come lo fanno, io sono pugile. Oggettivamente il mio obiettivo è avere una preparazione tecnica. Che è tutta un'altra cosa però il pugilato. È tutta un'altra cosa rispetto a quello di cui stiamo parlando. Assolutamente, però conosco praticanti di MMA e comunque diciamo che noi per quanto riguarda lo sport da combattimento capita spesso di... L'MMA comprende anche parte del pugilato, di allenarci insieme. Nicoletti, purtroppo i cattivi maestri esistono ovunque. Qua stiamo parlando di persone che comunque erano portate alla delinquenza. E comunque parliamo di una palestra che comunque ammetteva l'ingresso di pregiudicati. È quello che giustamente ribadisci tu che pratichi seriamente. Il pugilato poi non è per ragazzine, cioè i pugili si danno i pugni in faccia. A fine di un incontro le botte le hanno prese davvero, non è che lo fanno, che è uno sport per signorine il pugilato, però è uno sport che rispetta certe regole, è chiaro. Sì, è assolutamente una tutela dell'atleta e un grande rispetto dell'atleta. Se ci sono difficoltà io non ho rabbia contro il mio avversario, pensi che talvolta sono stato ho affrontato amici e poi ci siamo visti, perché stiamo facendo, io lo so che può essere difficile da comprendere, ma stiamo facendo una partita di tennis. Io non, ma sì, ma lo capisco, ma ho frequentato le palestre. Poi Nicoletti. Mi dici una cosa però Davide, scusami, certo. Visto che sei dentro, mi dici una cosa. Io persone come i fratelli di Colleferro le ho conosciute negli anni 70, negli anni 80, quando ero ragazzo. Non è un fenomeno nuovo, il bullo di paese che vive in una zona liminare, che si atteggia a grande boss e che usa in maniera indiscriminata la propria capacità di offendere per affermare una sua leadership, un suo potere. È una sorta di capobranco di cui tutti hanno paura e nessuno osa contraddirlo. C'è una differenza rispetto a questo modello di bullo di paese, lo chiamo così, che di cui ho memoria storica nei decenni precedenti, e oggi diciamo il giro dell'MMA fatto di film, è fatto di incontri, è fatto di palestre, come dici te giustamente, non si pongono lo scrupolo di non accettare pregiudicati o persone chiaramente usano quella tecnica poi per offendere altre persone. Certo, ti faccio l'esempio, io adesso come io non, a me non piace che ognuno dica la mia arte è la migliore e non ammette certe, da me non succedono certe cose. Allora i karateka dicono che loro sono perfetti, hanno una disciplina assoluta, il kung fu lo stesso, i pugili, ed eccomi qua, dicono no, non abbiamo un'etica eccezionale. Se vai da un istruttore MMA certificato dice no, attenzione, quando noi combattiamo assolutamente sangue, schizzi, film, ma stiamo scherzando, appena c'è l'accenno, c'è il capo in piedi, se una persona viene colpita in un certo modo immediatamente si ferma a tutela dell'atleta. Lo so che, ripeto, è strano per chi non è praticante. Nicoletti, io sono non violento, nella mia vita non ho mai picchiato. Ma no, ma lo capisco, io ti capisco perfettamente. Un pugile tendenzialmente aggressivo, vi assicuro che se mi vede si mette a ridere. Guarda, capisco perfettamente. Normale, tu mi confermi che comunque in questo momento non serve fare crociate per dire chiudiamo le palestre, chi lo fa è un delinquente. Diciamo, uno lecitamente può, se vuole, anche se fa l'impiegato al catasto, dire: io la sera mi metto i tatuaggi, mi modello il corpo e vado a una palestra dove la gente si mena. Sono fatti suoi. La differenza poi è lo spostare quello che è un set emotivo in cui uno si può muovere come vuole, perché in palestra va gente consapevole di quello che fa, spostare il set emotivo poi nella vita comune con persone come il povero Willy, che non aveva nessuna colpa e nulla voleva in quel momento se non sedare persone, almeno questa ricostruzione, che stavano combattendo. Fra l'altro contravvenendo a uno dei principi fondamentali: quando vedi gente che si mena non ti mettere in mezzo, o sbaglio? Delinquente, nell'antichità gli davo la clava, adesso gli do il Kalashnikov. Quindi il delinquente è delinquente e resta tale. Se ha occasione di essere addestrato come Al Qaeda nei campi, diventerà un delinquente addestrato, perché comunque d'altra parte c'è un campo che lo addestra pur conoscendo che lui è un delinquente. Cattivi maestri, che ci sia necessità, come avviene, perdono, questa volta mi sento di perorare la mia causa, perché da pugile la Federazione Italiana vaglia i propri istruttori con preparazioni di tipo psicologico, caratteriale atletico, in modo scrupoloso, non chiunque lo diventa. Vi faccio un esempio: abbiamo scoperto che è stato sospeso uno dei nostri ragazzi per bullismo. Purtroppo questo ragazzo non è più stato messo in palestra semplicemente perché, attenzione, però Davide ci sta, Davide ci sta, però ci sta, ci sta tutto, non siamo educatori. Sì, però tu non devi avere persone che inquinano quello che è il senso di quello che tu vai insegnando. È giustissimo, le palestre dovrebbero avere come principio, quando uno si capisce che uno dei loro iscritti pratica quello che apprende in palestra come strumento di affermazione personale, di sopraffazione o di violenza, dovrebbe cacciarlo dalla palestra. Grazie Raffaele, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto volevo complimentarmi per la vostra trasmissione, che forse nel panorama dell'informazione è una perla rara in quanto ad approfondimento. Volevo dare un contributo alla discussione che mi sembra ben molto avviata da un altro punto di vista. Innanzitutto separerei lo sport e i principi dello sport e l'etica dello sport con la violenza, e io credo che questo caso rientri diciamo con tutto se stesso in un caso di violenza, e quindi andrebbero indagate le ragioni da un altro punto di vista, andrebbero analizzate queste persone perché probabilmente hanno avuto dei problemi, hanno dei problemi, o magari è un'insoddisfazione. O semplicemente sono sempre dalla giustificazione delle fanciullezze martoriate, sono semplicemente stronzi. L'umanità è fatta anche di gente stronza. Nasce stronza, non c'ha colpa ai genitori, non c'ha colpa al DNA, non c'ha colpa a nessuno. Sono degli stronzi, fine, basta, basta dirlo. Cioè, se no dobbiamo sempre creare una sorta di sostrato giustificativo. Non c'è giustificazione. Picchiare un ragazzino quando tu sei una persona abituata comunque a dare i pugni, lo sai, non c'ha assolutamente nessun senso. Ci fermiamo ancora un istante, scusa. Melog 800240024, abbiamo tantissimi ascoltatori che praticano arti di combattimento. Ci vogliono dire la loro rispetto al tema che abbiamo posto. Esiste sicuramente un filone di cultura pop legato al combattimento, all'MMA, la tecnica di combattimento che è stata messa in atto nell'uccisione del ragazzo di Colleferro, ma allo stesso tempo cerchiamo di capire se c'è qualcosa di nuovo rispetto a questo fenomeno, qualcosa di inedito, semplicemente è la redizione corroborata da un filone di film, di fantaletteratura, di supereroi, di social, di un'antica pratica di bullismo di paese. Sentiamo Nino, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho vissuto in diretta, cioè in prima persona, sulla mia persona, direttamente, un'azione di questo genere, in cui volevo separare un mio amico sottrarre un mio amico da una rissa, e sono stato minacciato da due ragazzotti belli impostati, chiaramente, poi sono stato anche picchiato. Il problema lì è che se la cosa potrebbe finire anche lì, se io mi sono preso i miei pugni e basta. Il problema è che dietro c'è una famiglia, c'erano delle famiglie invece. E queste famiglie non potevano assolutamente lasciare che il loro figlio avesse torto di fronte alle persone per quello che aveva fatto. E quindi sono stato continuamente, ulteriormente minacciato da queste persone con le famiglie. Poi andate a finire che i due ragazzi... Nino, lei mi conferma quello che stanno dicendo tutti i praticanti di arti di combattimento. Quando si entra in una sorta di area liminare familiar delinquenziale, non che siano delinquenti, ma che hanno un comportamento arrogante, tipico delle società in cui è forte la delinquenza diffusa, quando i genitori, i padri difendono il figlio perché in fondo il mondo è fatto di perdenti e di vincenti, perché il figlio ha studiato, ha appreso la maniera di difendersi, colpa degli altri che non sanno difendere, è chiaro il contesto alla fine, è un contesto di società non più civile, società che torna indietro, società arcaica. Esistono queste sacche, non voglio parlare come, dove, quando, per colpa di chi, esistono, ma le persone di buon senso vanno in palestra, praticano le arti marziali come fa Bruno Ballardini, le insegnano, sono capaci, se vogliono, con il dito mignolo di prendere i due fratelli di Colleferro e metterli a terra, però pacatamente dicono che questo è sbagliato. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo esprimere un pensiero che è questo. Io credo che lo sport debba avere un ruolo educativo, sempre. Qualsiasi posto deve educare, dove si prende in carico delle persone e dei ragazzi. E così come il bullo scappa nell'educazione a scuola, scappa anche in una palestra e scappa anche il morto. Questa è una cosa che impedisce qualsiasi, si fa fatica a fare qualsiasi ragionamento a posteriori. Io per esperienza ho giocato a rugby e ho fatto il Brazilian Jiu-Jitsu, che è una, diciamo, una branca dell'MMA, una componente dell'MMA, sì. Esatto, e posso garantire che vabbè, il rugby ovviamente culturalmente gli educatori sono è uno sport dove per fortuna le mele marce vengono allontanate immediatamente dal bambino al genitore, dal giocatore al genitore. È uno sport molto, diciamo, molto virile il rugby. Il rugby ci si mena, è fatto la gente forte. Il rugby comunque sia è uno sport praticato con maggiore frequenza nell'ambito di persone che hanno un punto di vista. Non lo voglio dire che sia condannabile, però chi pratica rugby molto più diffusamente una persona che ha una visione di destra della vita. Visione di destra significa, certo, una visione in cui viene, ma non ho pregiudizi a questo punto di vista. Non sono molto d'accordo a parlare di atteggiamento fascistoide di questi due. Atteggiamento che va oltre la definizione ideologica, anche fosse di fascistoide, è qualcosa che ha maggior dignità rispetto alla totale rozzezza di chi lo fa in maniera ottusa. Almeno sull'ideologia discutiamo, possiamo argomentare. Sul fatto che io te meno perché te vado de capoccia, non me da rompere i coglioni, questo è il discorso. Su questo è la brutalità totale, su cui non ci sono argomenti di articolazione. Sentiamo Riccardo, buongiorno. Buongiorno, Riccardo da Bologna, 58 anni, pratico judo da quando ne ho 9, ho fatto, sono maestro di judo, Brazilian Jiu-Jitsu, Kung Fu e tutto quello che tutti i correlati. Ti diverti. Esatto, ma questi non è che sono praticanti, no, questi sono stronzi, come ha detto prima lei, questi sono coproliti masticati che hanno generato altri coproliti, ma è l'equivalente di uno che tira un pugno a una donna, cioè, questo non è arti marziale, questi hanno massacrato uno, potevano farlo senza arti marziali, cioè non è che ci vuole uno studio particolare a prendere a calcio una ragazzina di 40 kg. C'è un deficiente, basta. Ma infatti questo è concentrata in un unico solo neurone che hanno, ma il problema è l'ignoranza totale, proprio non ci sono, non è fascista, comunista, chi se ne frega. Ma infatti, guardi, lei sta dicendo in maniera molto più articolata e più esatta quello che era il mio pensiero iniziale. Ci siamo di fronte a una sacca di arretratezza culturale generale, in un ambiente, bisogna dirlo, che tollera comunque questo tipo di arretratezza, perché questi facessero i bulletti, andavano in giro per le discoteche, che menavano, era tollerato, ma come sarà tollerato in altre mille occasioni? E posso anche capirlo, non voglio fare il carino e il simpatico che dalla sua cameretta blindata dà lezione agli altri, mi rendo conto che in un piccolo contesto, se tu un domani provi a denunciare le persone che vanno in giro a menare le discoteche, il giorno dopo te le trovi sotto casa, se trova sotto casa tuo figlio, e ha mille problemi, e quindi nessuno si vuole creare problemi, cioè, una una vigilanza di tipo istituzionale su questo, di tipo istituzionale che in realtà non c'è stata. Mi rendo conto che nelle frange di effrazione possibili che vanno dallo spacciatore all'assassino per criminalità organizzata, al violento che uccide per rapinare, poi alla fine della scala c'è anche il bulletto di paese che va menando per discoteche. Bruno Ballardini, vorrei concludere con te, visto che ci sono tantissimi ascoltatori. Guarda, oggi hanno chiamato soltanto persone che praticano o comunque hanno praticato arti. È possibile tirare una conclusione che non sia soltanto di tipo moralistico, che l'odio? Può esistere una norma pratica per cui episodi del genere perlomeno siano contenuti, non avvengano più sotto la tolleranza di chi insegna a fare certi atti? Guarda, noi abbiamo il problema della crisi della famiglia che è incapace di educare e quindi delega sempre altri all'educazione. In tutto questo mi riallaccio a quello che diceva il praticante di box, sono assolutamente d'accordo, poi dipende anche dagli insegnanti, bisogna scegliere dei bravi insegnanti, ma io vorrei anche controbattere sul fatto del chiudere le palestre, non chiudere, questo è assolutamente sbagliato e assurdo, perché in realtà queste discipline hanno un grande valore educativo e formativo. I giovani hanno voglia di imitare i film, ecco, la chiave è la spettacolarizzazione, che è dannosa, nel senso che la voglia di emulare le botte o il sangue porta violenza, è meglio andare a praticare direttamente, cioè chi proviene dallo spettacolo e cerca le cose spettacolari non ha ancora risolto dentro di sé il conflitto tra il proprio narcisismo e la voglia di fare a botte. Quando uno vede, non so, Bud Spencer che dà pugnoni per tutto il film e gli viene voglia di andare a fare botte, va in una palestra di box e prende un sacco di pugni, finalmente poi si ridimensiona e cambia. Allora, se riesce ad adattarsi, a superare l'impatto tra realtà virtuale e realtà fattiva, reale, forse diventa una buona persona. Questo è, andate a praticare, smettetela di stare a guardare la bellezza del calcio, la bellezza dello spettacolo, non fate gli spettatori, andate. Questa è la tua filosofia sui limiti dello sport, come viene popolarmente inteso. Io aggiungerei un'altra cosa, vediamo se me l'appoggio o me l'articoli meglio. È molto facile fare i fighetti di paese e prendersela con le persone inermi. Un pochino più difficile è, anche se tu hai fatto 7000 arti MMA, vai in un quartiere malfamato, vatti a confrontare con dei veri coatti senza scrupolo, e poi vediamo come ne esci sano. Il vero impatto con i veri cattivi poi è tutt'altra cosa, e questi forse non lo conoscono. Assolutamente. E quando sono solo loro i cattivi è troppo facile. Il problema è che queste cose non vanno usate, non vanno messe in mano a persone di dubbia formazione o di dubbia morale. E quindi è anche un problema degli insegnanti, della selezione degli insegnanti. Per il resto io credo che spezzerò sempre una lancia a favore della pratica delle arti marziali tradizionali, perché è quanto di più educativo esista in mezzo a tutte queste discipline. Grazie Bruno Ballardini, grazie a tutti i maestri che ci hanno chiamato, grazie che ci ha ascoltato. Alla prossima. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.